non voglio più rubare dietro alle mie parole, ma capisco cosa vorrei fare per fuggire dai miei pensati vincoli. Ora non ci penso ma ti vedo, ora vedo che non ci penso mai. Per un mese, correndo più veloce, cercherò dentro di me il tuo ricordo. Tutto passa, il passo rimane uguale, tu farai la mia, che rimane fermo, solo la sorte della mente, ma non te lo sarà, dopo che passa e ti distruggerà, il passato eterno, resta, niente, rimane fermo. Correre sull'esistenza, limitazioni, non pensare a te, non scrivere per un mese. Più lento rallenterò il tuo pensiero, tutto basta, niente rimane qua, tutto resta, niente rimane fermo, e lo racconterò le mie, ma non te ne sarà, dopo che passa e distruggerà, il passato eterno, resta, niente rimane fermo. Tutto resta, niente rimane fermo.